Questo parco era sulla linea del fronte, insieme ad altre importanti infrastrutture della città di Sarajevo, come per esempio una fabbrica, che anche questa è stata sminata negli ultimi mesi dall'organizzazione non governativa italiana Intersos, e tutte le infrastrutture appunto che si trovavano su questa linea del combattimento sono state rese inutilizzabili per ormai quasi 9 anni dopo la fine del conflitto, dopo gli accordi di Dayton, per la popolazione locale. Questo con gravissime ripercussioni sia economiche che sociali. In questa sola municipalità della città di Sarajevo c'erano prima della guerra più di 38.000 posti di lavoro, subito dopo la guerra si sono ridotti a 600. E in quest'unico complesso, diciamo, industriale che è appena stato sminato, che abbiamo visitato, lavoravano quasi 8.000 persone fra operai, amministrativi e addetti ai servizi vari. Quindi l'impatto che la guerra e il lungo dopoguerra hanno avuto su queste comunità è pesantissimo. Sono piccole storie quindi di successo queste, dei posti che sono stati sminati, il parco che torna a poter vedere i bambini che giocano, la fabbrica che pur ora lottizzata in più piccole porzioni sta ritornando a una vita produttiva, ma ci sono ancora in un paese come la Bosnia, che si trova nel cuore dell'Europa, delle aree pesantemente, la pista di bob del complesso olimpico di Sarajevo 1984, che si trova nel mezzo di un campo minato che si estende sulle pendici del monte Trebević, dove si erano appostati le forze serbe durante la guerra per tenere in scacco la città di Sarajevo, e il bosco appunto è tutto completamente infestato da mine. Il lavoro di rimozione di queste mine è difficilissimo, perché le condizioni del terreno sono molto difficili e perché il territorio è anche pesantemente infestato da oggetti di metallo, quindi è difficile riconoscere le mine dagli oggetti di metallo che sono stati lasciati dalle forze, diciamo, che occupavano quelle posizioni. Però la bonifica è fondamentale per poter riportare questo monte, che è sempre stato nella storia di Sarajevo uno dei punti di riferimento per le famiglie, la domenica andare a fare il picnic, e nella storia, diciamo, sportiva della città di Sarajevo, il cuore delle strutture olimpiche, per riportarle appunto alla possibilità di un utilizzo. Tra l'altro Sarajevo ha fatto domanda per l'assegnazione delle Olimpiadi nel 2014, quindi sarebbe bello, sarebbe positivo poterla vedere tornare a rifiorire in questo senso. In questi giorni, tra l'altro, a Sarajevo si sono riuniti più di 120 ricercatori provenienti da tutto il mondo per discutere i dati e le ricerche che confluiranno nell'Under Monitor Report del 2004, che quest'anno si pubblica a novembre e che conterrà anche una panoramica degli ultimi 5 anni, dei 5 anni cioè in cui è stato in vigore il Trattato di Ottawa. E come per altre riunioni di questo genere che si sono tenute quest'anno, è stato scelto apposta un paese pesantemente minato, un paese con una valenza simbolica come la Bosnia, per portare un messaggio anche di solidarietà concreta da parte degli attivisti, da parte dei ricercatori sulle mine di tutto il mondo alle popolazioni bosniache.